io te lo vedrò, se amor mi legare, e quali avrò, il mio fedele. Merce, merce, del mio pedal merce. Dimmi, pastora, se ti dolce amor, e quali avrò, del mio pedal merce. E quali avrò del mio penare, del mio penare, del mio penare, del mio penare. Non altro io bravo, se servo e cedo, che trovai nel tuo seno amore e fe, amore e fe, che trovai nel tuo seno amore e fe. Dimmi, pastore, ninfa mi spiega, mi pastora, se mi credo il signore, mi dico io avrò, quale avrò, il mio penale, merce, merce, e quale avrò, del mio penale, del mio penale, merce, del mio penale, del mio penale, merce.